No, abbassiamo. Guarda un attimino, allora mettiamo così, dovrebbe andare bene. Certo, così va bene. Facciamo da... così, dai. Vedi un po', 1, 2, 3, non alzo di più allora. Che microfono stai usando? È un palmare, questo, un palmare però un potenziometro placcato, diciamo, quindi sto adattando il mic a questa radio. Ecco, capito. Però, poco fa, all'inizio eri proprio fuori, tutto, sembravi in un'altra frequenza. Vabbè, ma adesso va meglio oppure devo abbassare ancora? No, lascialo così, va benissimo. L'importante è che è amplificata e che vada bene, dai. Sì, è amplificata e va bene, perché è molto chiaro adesso e c'è anche un po' di prepotenza. Così ci piace, Fra. La buonasera, comunque, grazie dei controlli. Facciamo tutto comunque. sono entrato oggi a chiamare Gabino, perché di solito entra Gabino a quest'ora, invece, oppure anche prima, però questa sera non è entrato nessuno. Ma per dirti la verità, stavo provando anch'io a chiamare a qualcuno, ma nessuno mi rispondeva. Vediamo un attimino qua, se cambia qualche cosa, adesso mi prendo questo qua di riferimento, guarda. Ecco, adesso ho provato a usare un attimino un altro potenziometro. Va bene ancora. Ma ha cambiato oppure è rimasto stabile? No, è rimasto sempre lo stesso. Per me è sempre lo stesso. Ecco qua, allora un attimino, se non cambia così vuol dire che non c'entra un cavolo questa cosa qua. No, è sempre lo stesso. Sempre la stessa modulazione. Ebbene, allora ce lo rimetto a posto. Mentre invece con questo cambia. Faccio. Eccolo qua, se lo metto un po' così ed è compressa. No, ancora non è compressa, è buono. Ma è cambiato qualche cosa, dai, io sto sempre sollevando, guarda. Adesso siamo a metà, diciamo. Vediamo un po' se ha cambiato. Ma io ti ascolto sempre allo stesso livello adesso. Ecco, buonasera. Era ora, ciao Gabi. Ciao Gabino, buonasera. Come lo ascolti tu a te? Buonasera a tutti, ciao Franco e ciao Tino. Io a Tino ascolto un po' cupo Tino. Anche io, per disabilità è un po' di rumore di sottofondo. Non so, ora se posso migliorare anche dalle tue parti. Sto provando una cosa esterna, se va bene. A me sembra, non è roba microfonica o cosa, sembra tutta roba di... Sì, molto, molto compresso, diciamo potenza, roba di potenza, mi sembra. Adesso ho abbassato, guarda un pochino, si è migliorato. Tieni presente che sto usando un microfono palmare. Ha migliorato tantissimo, non so se Franco mi conferma o vai Franco. Ha migliorato, si è abbassata la radio, però ha migliorato, come radio migliora ancora. Va bene, dai, allora la lasciamo così. L'importante è che sia un po' amplificata, perché a me come si suol dire, la radio di salotto poco mi piace, è invece un pochino più, tra virgolette, prepotente. Capo. Tino, prova adesso, come adesso, avvicinarsi solo al microfono alla bocca. Ce l'ho cosa ti voglio dire, a 10 centimetri, è come si utilizza un qualsiasi mic palmare, ecco. Come l'ascolti tu? Io l'ascolto modalità radio da salotto, pulita. Non è la modulazione che sicuramente piace a Tino, però se ascolto pulito Tino, non ci sono problemi. Se la vuoi da combattimento puoi alzarla un pochino anche, diciamo, il watt. No, vabbè, i watt sono questi. Guarda, a me lo alziamo così, non so se ha migliorato o peggiorato dalle vostre parti. No, guarda, come composita di radio c'è. Ah, un po' di troppe basse frequenze, mi segui, ti mancano gli acuti. Ci vuole un po' più di acuti, ma secondo me è proprio la qualità del microfono. Sì, dai. Se non fa il male, no, tu sei abituato a sentirmi con col 60, quindi totalmente diverso. Sì, no, vabbè, per essere un palmare va bene, per essere un palmare già va bene. Tu come mi ascolti qui da te? Sì, è un po' cupo, sì, ma diciamo che la ricezione di questa cosa è diversa dall'altra, dai, di quella che avevo, sto usando un altro tipologia di radio. No, ho capito. Franco, sono cupo io da te? Sì, è un po' cupo, sì, è vero. Tino, guarda, adesso ho cambiato radio, è proprio micidiale, una bella radio, Tino. Bene, sono contento. Va bene, a me interessa che abbia un pochino di amplificazione anche, perché non mi piace, come ha detto Gavino, la radio da salotto. A me piace un pochino più gracchiante, ecco. Allora, poco fa lo potevo alzare là, perché non potevo mettere le cuffie, ma qua mi ho messo le cuffie, adesso è veramente bella la produzione. Sì, Gavino, sei un po' cupo. Poi, diciamo che forse dipende anche perché sei troppo vicino, che c'è la modulazione anche molto alta. Vorrà vedere adesso se sono cupo o se ha migliorato. Mi sono allontanato, sarò a 20 cm dal microfono e niente. Forse avevo troppe basse. Ha migliorato? Sì, un po' ha migliorato. Da te, Tino? Sì, Gavi, ha migliorato tantissimo in confronto a poc'anzi. Positivo, sì, no, vero, perché mi sono messo, perché i microfoni non li tengo sulla scrivania, li metto da parte, ed era un pochino, dai, ce l'avevo in grembo, forse era troppo vicino, però adesso dovrebbe andare bene, perché Franco è la modulazione che uso sempre, è sempre quella MB+4 con lo Shure, quindi ora ed è così. Poi l'ho appena acceso anche, adesso vediamo un pochino. Tu c'hai anche la modulazione un po' grossa, c'hai, ed è diverso. Tino invece ce l'ha più diverso della tua, la modulazione. Avanti, Tino. Sì, bene. Gabi, dammi un controllo di segnale, se ha cambiato qualche cosa. Adesso ti mando anche una fotografia. Vedi un pochino se ha cambiato, non so. Guarda, me sei 9.50, T. Sei 9.50, hai lo stesso segnale, Franco mi arriva a fondo scala e tu sei 9.50. Vabbè, Franco è un pochino più vicino, è in confronto, comunque già va bene, ha voglia. Guarda, Gavi, a te ti arriva 9.50, a me mi arriva 9.10, mi arriva. Guarda quanto è più coperto da parte mia, Sì, no, ma io li miri, posso fare anche il video a Tino e non ci sono problemi, posso confermare con video o foto il segnale che ha, almeno la mia radio riceve così, posso controllarlo anche io il ricevitore. Sì, aspetta, fammi un passaggio, aspetta che accendo il ricevitore e ti controllo il ricevitore. Fa un passaggio. Sì, bene, guarda, ti ho mandato anche una foto, Gavi, per vedere una cosa. Vabbè, e tieni conto che questa è una cosa un pochino più dettagliata, diciamo, da quello che stavo utilizzando prima. Stavo mettendo un po' le mani per vedere un pochino come funzionava. A te il cambio, dai. Allora, guarda, con ricevitore, con l'ICOM, sì, 9.55 per l'esattezza. 9.55. Sì, ma è quello che io ti volevo dire, quello che stavo parlando ieri, da Sassari ti arrivano più, meglio a te, tu sei più libero in confronto a me da loro, capito? Sì, quello sì. Ma vedi tu la fanno i casi, non c'è tanti. Tu fammi da furuendo, avanti sì. E allora, infatti l'ho sentito, io invece ce l'ho qua a fianco, che ogni tanto si emoziona, però ci ha mangiato insomma, qualche cosina che lo fa arieggiare, per carità. E vabbè, quando lo buttiamo fuori, perché anche io devo andare a Nanna, domani devo andare a Nuoro, e quindi a Nuoro, come si suol dire, e quindi devo, non posso fare nottata, ma capito? Vabbè, comunque era una cosa che volevo provare, meno male che siete entrati voi e avete regolato un pochino la situation. Vabbè, quello, noi ci siamo quasi tutte le notti, quasi, ma diciamo che adesso mi stavo guardando un film e mi stavo guardando, ho detto, tanto ho visto che non c'è nessuno, poi ho sentito questo fischio, però non si capiva cosa era, capito? Sì, ero io, però sai, come tutte le cose, se non c'è quello che ascolta dall'altra parte, sa, non puoi solo fischiare a vedere un po' se il PVR sale, però non sai se sta andando bene o meno. Bene, dai, sono contento. Siamo romani, ti? Sì, capito, devo andare, deve giocare mio figlio e lo devo accompagnare domani mattina alle 6, sveglia presto, dobbiamo essere alle 8 o 10 se non sbaglio. Positivo. No, stasera io non sono entrato perché stavo facendo cosa, ero qua in radio e però stavo facendo cosa a questo ricevitore. Aspetta, ho preso gli attacchi N, mi sono arrivati degli attacchi N belli, sono andato a installarli e come muovevo il cavo mi saliva di segnale, cioè lo lasciavo, ma ho fatto bene il cavo. Mi cavolavo per farsi contatti, non ho capito. Poi gli ho rimesso quello vecchio che avevo in origine, è tutto a posto. Cioè, ma per esempio io lo provo su Radio 105, no? Su Radio 105 è qua mi arriva in genere, segnale 9 e me lo copiamo 3, 4, boh, pure saldature fatte bene, non ho capito, ma tutti questi connettori, non ho capito cosa c'hanno. No, io li ho fatti e sono perfetti, non li ho neanche saldati, perché il cavo che ho io è molto grosso. E ti dico che non li ho dovuto anche limare il coso, il polo caldo, un po' per farli entrare. Eppure sono perfetti. No, anch'io ho l'RG213 per il ricevitore. Anche io gli ho limato il polo caldo, gli ho tolto un paio di fili di rame perché altrimenti non entrava dentro. Però gli attacchi N. Hanno poca filettatura nella vite che va alla radio, che va alla massa, e balla, non arriva a fine corsa, infatti l'ho rimesso quello vecchio, ho notato questa cosa qua che c'ha il che quello vecchio non balla, comunque. Adesso li modifico e li taglio, lo taglio un pochino, lo molo e domani lo provo. Riprenditi. Sì, capito, ti volevo chiedere una cortesia, se ti viene bene, fare un video mentre io parlo, così dopo me lo mandi e mi ascolto la modulazione. Cosa devo chiedere? A parte questo, ci ha mandato un messaggio, vedi un po' se guardalo, così almeno capisci cosa, tutte cose. Sì, prendo il telefono che ce l'ho in cucina e ti faccio un video, sì, come sono pronto, 2 minuti e lo facciamo, ok? Sì, sì, sì, va bene, va bene, va bene. E allora fa, tutto ok? Ecco, tutto ok, fino adesso va bene. Beh, oggi mi ero con degli amici, degli amatori. Ho visto una foto di Vannino quando era giovane, che sono partiti fuori, verso qualche fiera così. Ragno ragno, con tanti capelli. Dove è Vannino? Quello era tanto allora, sì. Prima, adesso, ormai il tetto c'è scoperchiato. Sì, vabbè, un po' a tutti quello succede. Ma vabbè, io ti parlo che forse adesso forse è una fotografia di circa 20 anni fa, Sì. Lo conosco da vecchia data, Vannino. Ho visto anche con i capelli. E allora, era insieme ad altri radiomatturi, stavano andando molto sicuramente a qualche fiera, quindi erano in partenza con la nave. Probabilmente stavano a Genova o da qualche altra parte. No. E hai capito il messaggio che ti ho detto, vabbè. Vedi un pochino, vai. Se riesci a farmi questo video, poi me lo mandi. Vai, io sono pronto, quando vuoi. Vai ora, giusto una prova di modulazione per vedere un pochino come sta uscendo questo mic, così super preparato all'ultimo livello. Ok, dai, ti rilancio il mic, grazie, capito? Oh no, va bene, sì. Non problemi. Ma mi sta arrivando molto bene. Mi sta arrivando molto bene, ti non c'è da dire niente. Non c'è da dire niente. Non c'ho il numero di Franco io, non c'ho il numero di Franco per girargli la foto di questo microfono qua, come l'ho fatto. Adesso ti faccio la foto e te lo faccio vedere qui. Ce l'ho collegato al 450, Sì, si mandano a me, poi la mando a lui. Poi aggiragli il mio numero, se puoi. Beh, aspetta un attimino. Fatto, dovrebbe essere arrivato, Mandami quella modulazione che l'ascolto. Sì, sta inviando, sì. Guarda, mancano pochi secondi, sì. Grazie Franco, mi ho fatto girare il tuo numero. Cazzo, va bene. Fra, magari non volevi. Sì, perché no? Sto scherzando, sennò dovevi intervenire da prima. No, dovevo mandarglielo Gianni da ieri, però non mi è arrivato niente. No, non me l'ha mandato. E allora sì, sei litigato. È perché mi hai detto tutto di mandarlo da ieri. Ma mi è arrivata roba, tu l'hai mandata? Io? No, io non ti ho mandato niente, Fra. Ah, no, allora qualche messaggio. Perché se l'hai mandata, mandatemela su WhatsApp. No, non ti ho mandato niente io, Fra. Ah, no, è libero. Sono da mattina, per carità, oggi lavorato tra amici, dai, diciamo. Ma sono stamattina presto, in giro, sono entrato anche tardi stasera, ho mangiato, voglio un sonno, per carità. E anche io stavo facendo cosa oggi stamattina, questa sera ho fatto, ti ripeto, due cavi, poi adesso ero da mangiare al mio suocero. Sono entrato adesso. L'hai visto il video, ti? No, ancora, lascio vedere, no, non mi è arrivato niente ancora. Aspetta. A me mi risulta che l'ha mandato, A me mi risulta che l'ha mandato, però non l'hai visto. Sì, è online. Sì, mi assento con Rix un attimino. È positivo. E allora, Fra, stasera vi ho sentito, però non potevo entrare perché non potevo parlare, che stavo facendo cosa. Siamo stati un po' a chiacchierare con Gianni e poi io sono dovuto andare perché qua non c'era il pellet, allora sono dovuto andare a prendere il pellet. E anche io dovevo andare oggi, lo sai. Anch'io dovevo andare, me ne sono dimenticato, ne ho ne ho un sacco anche aperto. Adesso domani mattina devo per forza salire a Sassari e andare a comprare il pellet, perché non ne ho. Per rompere le scatole a me andare ai negozi di domenica, guarda. Però oggi ero incasinato nero, Sono andato a Brico stamattina a prendere un pezzo, diciamo, del legno per fare degli sgabelli per qua, per casa, perché me li faccio io, non mi piace fare queste cose. Cioè, ma non si può toccare, non si può più toccare niente. Il legno, un pezzo di tavola sotto a misura, 12-15 euro, cioè, ma... Sì, sì, Gavi, però mi sembrava un po' metallica, non so, forse tu l'ascolti meglio con la radio che col telefonino, correggimi se sbaglio. No, guarda, io ho un telefono, un Realme, che non fa proprio con l'audio, non è il massimo, proprio con l'audio non è il massimo. No, però guarda, te l'avrei detto se non si sarebbe, se sarebbe stata una modulazione scarsa, oppure se non sarebbe stata bella. Almeno qua da me arrivi benissimo, ma come sempre, senza problemi, senza niente. Però magari le modalità audio di questo telefono, forse perché avevo il volume un po' alto della radio e andava in saturazione qua l'autotrasmissione del telefono, però credimi che arrivi bene. Bene, va meglio. Va bene, io adesso l'ho ascoltata, sì, è bella, forte, è chiara, però ti ripeto, a mio orecchio, ascoltandola al telefonino, mi sembrava un pochino metallica. Bella quell'invenzione che hai fatto, mi piace. Il microfono è fuori. Hai visto che è bello? Non è bello, da vedere è un po' brutto, però lo stai ascoltando ed è un microfono che è efficiente, vedi? Non è che, in confronto alle MP4 normale ha tutta un'altra modulazione. Ma non avrei mai detto ascoltandolo così che era un MP4, Sì? Sì. Vabbè, io nell'HR5V5 o il più 5, una radio sempre un po' prepotente, un po' metallica, un po', però vabbè, già va bene, quella radiatoria da combattimento, chiamiamola così, tra virgolette. Positivo. Ho contattato Riccardo, quel ragazzino che c'è qua in 27, perché ho visto che stava vendendo dei tanner e uno lo volevo prendere, magari uno o due, magari per abbinarlo anche uno qua per fare delle prove e uno per metterlo nel superstar, mi segui. Il tanner normale, il P3, quello B. Però non mi ha risposto ancora, gli ho mandato venerdì, ti ricordi fra che me l'avete detto voi che lui stava vendendo? Ah sì, ci sono su Facebook, vai sulla casetta lì e poi lo trovi, c'è, ci sono delle radio anche vendendo, microfoni, c'è di tutto, c'è, per sta vendendo. Fino, ascolta quella che ti ho mandato io a vedere la modulazione. Sì, l'ho contattato da Market Cleaning, spero deve essere non ha ancora letto il messaggio. Probabilmente non l'ha letto. C'è un bel di roba, di carne ne ha una sfilata. Sì, no, vabbè, a me interessano i partner, però quelli lì mi segui, quelli grigi, perché si abbinano molto bene a Superstar e poi io voglio quello originale, il più 3B. Sì, quelli sono buoni, quelli lì. Allora Tettino. Qua Gabi, io ne ho uno, se lo vuoi provare, però è nero e... diciamo la verità, devo farmi le connessioni per un'altra radio, però non ho il tempo necessario per poterlo fare, quindi niente, se ti interessa te lo presto, vediamo un po' cosa, com'è la modulazione, poi quando sarà, che ho tempo a disposizione lo faccio, non c'è problema. No, guarda, se tu lo vendi io te lo prendo, se tu lo vendi io te lo compro il tanner, perché io ti ricordo da quando ce l'avevo un po' di anni fa la radio, avevo il Thunder più 3 Super Siderick e andava bene, poi ho avuto anche il più 3, quello nero che stai dicendo tu, e vanno bene. Cioè se è originale queste cose qua, tu mi dici quanto lo vuoi, io te lo prendo, tu mi segui, sì, non è un problema. Tanto se lo prendo devo fargli la connessione, al cioè al 450, perché uno lo tengo anche per il 450 e uno per il, me ne prendo un altro per il 3009, mi segui? No, vabbè, te l'ho preso perché a me non piace, guarda, io diciamo la verità, i regali me li tengo per me, me l'hanno regalato e non mi va di venderlo, non me lo tengo, però te lo posso prestare tranquillamente, occhi chiusi, tanto non è che, no, non c'è problema per quello. E dai, vediamo. Oh, io roba per prestare non ne prendo mai. No, se mi risponde Riccardino magari già li prendo a lui, se li sta vendendo li prendo a lui e non c'è problema. Sì. No, io prestare non ne prendo perché guarda, no, perché può essere andato bene per 30 anni, ma in mano a me si rompe, ma non succede, però potrebbe, cioè le cose elettroniche sono cose elettroniche, quindi no. Ti ringrazio per la disponibilità, però è un po' un problema, per fare la roba no, non la vedo. Cioè, io sono al parere che la cosa serve per usare, se poi si rompe vuol dire che va a rompere, non sono il tipo che l'hai preso tu, me l'hai rotto, me ne fai nulla. Ti ripeto, me l'hanno regalato, devo fare la connessione anch'io, quindi lo spinato devo aprire, non c'è problema. Quindi tu, vabbè, io te l'ho proposto a livelli amichevoli, non ti preoccupare. Che connessione devi farli? Che cosa? Che connessione devi farli? Per un PVD o per un baracchino? No, per un baracchino, volevo provarlo qua nell'HR5005, che praticamente dovrebbe avere le stesse connessioni, se non sbaglio, del Galaxy Pluto, provo a morire. Ok, ho del Super Star, quindi anche se del Pluto c'è anche quello del Super Star. Allora facciamo così, che magari ci vediamo magari settimana prossima, però allora ti faccio le connessioni, magari te lo faccio sentire in radio, poi magari ci vediamo già e te lo restituisco, per quello non c'è problema. Così magari mi dici anche come esce. Ma vai tranquillo, se vuoi ti posso dare anche un più 4, cioè anche che va bene per quella roba lì. Non c'è problema. No, gli facciamo le connessioni, così te lo poi ce l'hai pronto. Ho abbinato l'MC80 all'ICOM, la 737. Spara come un dannato, ci credo. È quello che stavo usando ieri, Fra, riprendi, Franco. Ecco, bene, e questa Silo, ti piace la radio? Va bene, Fra, va bene, io te la prendo qua subito, Ecco, vai. Allora sai, Gavi, cosa gli ho collegato? E adesso lo aggancio. Il valvolare, gli ho collegato. Ok, dai. Cos'è? Da te, saturazione di Gavi? No, si sente che si è attaccato, però guarda, nonostante siamo vicini, sei salito di segnale, sei a fondo scala, come sempre, perché tu da me sei sempre a fondo scala, però si sente che è agganciato, ma non ha questa grandissima saturazione. Noti, va bene, tu sei un po' più lontano, però va bene. Con quanti batteri stai entrando? Allora, sta entrando 80-90 parlanti. Scusate, se mi permetto, per me sta andando in saturazione, e la radio è più compressa, poi questo è quanto ascolto io, eh. Ok, aspetta allora, eh. Allora, adesso ho passato il, l'altro, quello della radio. Com'è adesso, Tino? Oh, Tino. Adesso per me ha migliorato tantissimo, il segnale è rimasto stabile, in confronto a prima si è aumentato di qualche dB, non esageratamente, però si è aumentato. Allora è così, allora adesso lo metto a meno un quarto è lo stesso. Non ha cambiato niente per me. Ok, a mezzogiorno non ha cambiato, non cambia niente lo stesso. No, adesso sto iniziando. Allora, ma sei molto saturo. Ok, a mezzogiorno. Allora va bene a meno un quarto, così. Così è. Allora, per me sì, adesso sentiamo Calvino, per me va bene così. Un passaggio, Franco, un po' lunghetto. Ehi, capo, dai. Adesso ho messo la... la potenza della radio a meno un quarto ho messo, leggermente l'ho sollevata, e così. Invece adesso ti faccio, continuo un passaggio e te lo faccio a zero watt della radio. Adesso sono a zero watt della radio, sono. E sto uscendo con 80 modulati. Per me così è perfetto, per me così è perfetto. Non, come adesso il watt a mezzogiorno dovrebbe essere intorno ai 10 watt, così è, se non sbaglio, e di saturo. All'inizio andavi bene, non ho aggiunto il suo motivo, adesso però sei perfetto, vediamo un pochino, vai. Capo, dai, allora va bene così, va bene, sono 70-80 modulati. Così è perfetto, fra anche qualche picco positivo, poc'anzi invece eri in saturazione, però eri stabile, sei quasi, sei quasi 9,40, con il picco positivo. Capo, già va bene, già funziona, già va. Ok, così sono a pochi watt, mi sa 2-3 watt, adesso 10 watt, eccolo qua. L'incremento c'è, sì, quasi 9,25, 9,40 insomma. Sì, già funziona, Era da tanto che non accendevo più, stasera l'ho agganciato qua al gala. Ma più che bene. Ragazzi, io niente, non ce la faccio più, sono franco fisicamente, mentalmente, sono ancora sono amarezzone e mi voglio riposare prima, anche perché domani poi devo fare tutto il giorno fuori, visto che sono da quelle parti mi farò anche qualche diretto a visitare qualche altra cosa, quindi niente, mi voglio riposare. Vi saluto, vi ringrazio per avermi sostenuto nelle prove e niente, avremo modo di sentirci con calma e niente, al limite quando sarà metterò un altro microfono e faremo altre prove. Niente, vi saluto, aspetto i saluti e poi vado via, dai, riprendi fra. Ehi capo, dai, ciao Tino, allora, buona domenica per domani, divertiti, ce la ascoltiamo le prossime, avanti a te, capito? Sì. Buon tutto per domani, divertiti e fate di tutto per dominare. Tino, ti sto mandando una foto, anzi ti ho mandato solo quattro foto, ti sto inviando di una cosa che ho che è in arrivo. Adesso una portata di mano c'hai. Sì, ce l'ho qua, mi è arrivato adesso. Guarda, dammi un giudizio e poi ti lascio andare. Sta arrivando. Ho visto anche stasera questa roba qua. Ma vai, dove? Dove vado io il sabato solitamente. Ah, positivo, già ho capito. Dalla Sicilia, da Ciabani. Bene, va bene, a Puglia. Con quello c'è il Pulci. Sì, a Puglia. va bene, dai Tino, ti lasciamo andare, buona nottata, buon tutto, poi ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Va bene, dai, vi saluto di nuovo, ciao ciao, divertitevela. Ciao, ciao, ciao Tino. E quindi fra, no, lascia bene quella parecchietto, insomma, si diverte. Sì. Faccio vedere, mi sto memorizzando il tuo numero, fra. Faccio vedere. Ok, aspetta che aggiorno la lista contatti. Ma ti mando un messaggio e ti scrivo su un avvino. Ok. Luca, Luca, tu sei invito là, Luca di Porto Torres. Sì, per telefono la settimana scorsa mi sembra. Ha chiamato lui. Oh, è venuto a casa, lo sa, due settimane fa a prendere un box di un mixerino. Però avevo una bugia tre settimane fa. Proprio la bambina con la febbre ed è andato subito via, l'ho fatto quando è vieni che ci facciamo una bevuta, un aperitivo, infatti devo chiamarlo adesso, magari in settimana quando è libero lo chiamo e viene. Ehi, capo, un giorno che stava lavorando quando mattina e mi ha detto, beh, non ti sei in guardia, quindi ha giurato, sì, anche tu, sì, sei preso. E siamo tutti incasinati, finché un amico come voi che è in pensione magari è un po' più libero, non ha impegni, però guarda, chi lavora è un casino, e adesso poi tu già lo sai, hai lavorato prima di noi, però io per esempio sono incasinatissimo. Tutti sul lavoro è ovvio che siamo stati incasinati, io lo stesso, quando ho lavorato ero incasinato come Luca, come Fede, come gli altri, perché a volte arrivavo a casa, mi sedevo a mangiare, arrivavo alle due, mi sedevo a mangiare, la telefonata e ci vedo di nuovo a scendere, certo di dire, abbiamo ora, perché c'era sempre quello che non arrivava, capito? È positivo, io già ne ho fatto dall'albero industriale, io ero la Sicces, io sono stato 13 anni con la Sicces, fra, ed ero turnista anche io, facevamo dalle 6 alle 2, dalle 6 alle 14, dalle 0 alle 14, poi dalle 14 alle 22, e poi dalle 22 alle 6 del mattino, però c'era sempre quello, è vero che non arrivava, uscivi alle 2, alle 3 e un quarto ti chiamano, guarda non è venuto questo qua, puoi scendere a coprire il turno e va bene, e poi detti quasi 24 ore. Sì, ma è così, purtroppo il lavoro è quello. E adesso sta diventando ancora peggio, allora proprio niente, non vanno a travagliare, non fa bisogno manco. Infatti, adesso è un problema più grosso, sì, vabbè, io meno male. Sono riuscito, ho avuto la scappatoia, sono riuscito a svignarla e mi dovevo andare, faccio questa gente, va bene. Sì, perché poi rifare quel lavoro lì non ne vale neanche più la pena, mi fa. Prima qualcosa la facevi quando ce l'ho io di lì, eravamo tutti a fare, eravamo a fare globale. Capita, era di là, erano soldi, prendevi quelle 13-14 euro a ora, pulita, paga globale a fine mese, era di là, ma di là vero. Lo facevamo anche quando eravamo magari dentro a Fiume Santo o di lì, diciamo dove c'è, dovevano, diciamo, entravi da portinieri a mare. Quando ho iniziato io avevano fatto un fene al raddoppio del fenolo, in bassa Baduri, crocro. Sì, cioè 4 venna lì. Sì. Quando ho iniziato ero proprio, sono entrato, dopo un mese abbiamo iniziato a fare il raddoppio del fenolo. Ma fra, allora fai una lavorazione. Non so, io c'ero, allora. Grazie, ho conosciuto tutto lì. Sì, no, però si stava bene, c'era qualcosina, il lavoro c'era, non mancava e si stava bene. E si stava bene. Oh Franco, ma dimmi una cosa, come sono? Affitti positivi o stabile? Guarda un po'. Poi Franco, un pochino così, se ho dei picchi positivi o se è stabile oppure picchi negativi. Però aspetta, mi fai un altro passaggio e accendo un'altra radio. Ecco, questo non lo vedo perché arriva a 9.5 la modulazione, lo smitter e non va avanti l'anno. Però accendo l'altra radio e se lo vedo subito. Un attimino. Guarda, non ti disturbare, tutti lì. Vieni avanti. Guarda un pochino Franco, questo segnale sia picchi positivi continuo oppure picchi negativi, ti faccio anche un pip. Ora. Positivo, tutto positivo, sì, bello proprio, ma tutto positivo. Positivo, positivo. No, perché lo sto controllando anche in alimentazione, capito? Lo controllo anche in alimentazione dall'LC. Mi sta dando che è positivo, ma bisogna vedere in stazione e ricezione diciamo di qualcun altro se è veritiera la cosa. Ecco, già va bene, va bene. Io sono fissato queste cose qua, picchi positivi, perché no, il picco negativo fa ritmo. Un secondo, vai tranquillo. Ok, c'è un tratto un video che non lo sta. Adesso dovrebbe arrivare, ancora non sta caricando. Sì, tranquillo. Se vuoi andare la foto del petto mio, faccio vedere se la trovo. La foto della mia piccola. Se ti mando la foto della mia ti metti a ridere, ma la mia è piccola veramente. È arrivata? Sì. Va, se ci lo stengo questo, va. Sulla linea retta. Tanto non facciamo niente. Capita piccola fra. Se piccola quella, bella, guarda, ti mando la foto della mia, mi riesce a vedere, guarda, la mia è piccolina, lo stesso, ma la mia è piccola veramente, fra. Piccola, ma c'hai... Hai tre picchi colorosi, eh? Sì, no, vabbè, è piccola ma efficiente, diciamo, dai, è piccola ma efficiente. Ah, piccola ma efficiente. Allora, ce ne tolgo questo, che vendita mi sembra. Sì, ma lo tolgo dalla vendita. Guardate il tuo microfono, guarda il microfono che sto usando adesso, questo me l'ho costruito io, con la base del Tanner, guarda come l'ho fatto. Ah, questa... Ah, poi avete appunto il microfono. Hai visto che tolgo? Questo sono anche... Sì, questo me l'hanno regalato, questo me l'ha regalato un amico e infatti me lo tengo, infatti ho detto che faccio le connessioni e lo tengo perché i regali non si danno. Adesso ti mando una foto di cosa mi sta arrivando, cioè di cosa mi sta spedendo il tipo, riesci a vedere se lo trovo subito. Guarda, questo ce l'avevo io, 24, ed era buono, poi non mi ricordo a chi l'ho dato, non è che me lo ricordo. No, è già buono, perché questo qua è quello vecchio, con la cosa, con la targhetta nera, è quello la targhetta nera. Guarda cosa mi deve mandare lunedì, perché stava preparando l'imballaggio a prova di bomba, perché altrimenti questo qua se si rompe sono guai. Un Drake L4B, 3 kW. Ah, un Drake, eh. Caspita, questo è bello, eh. Da com'è che si basta? No, va giù il gruppo. Cosa? Va giù il gruppo. Ah, così, allora gli va bene. È bellino questo qua, eh. 3 kW. Ah vabbè, c'è intenzione di fare altre cose, sì, va bene, ma per qua, per chi lo faccio uscire lì? No, vabbè, sicuramente non lo userò neanche mai io questa roba qua. Però mi piace, capito? Mi piace vederli. Ma forse cos'è questo affare? Adesso Vito ti ha mandato il coso della trazione. Se tu guardi adesso io prendo e metto una radio giù e lui al centro, con il ricevitore giù e lui al centro dell'UHF, è assurdo. Per fare una però di niente piace. Sì, sì. Io avevo intenzione di farli prima. Io non è che c'avevo solo questa in casa, avevo anche il 440, avevo altre radio, avevo, io volevo fare una bella scrivania in corso, tutta in giro in giro, volevo fare bella tutto, poi alla fine magari lo faccio qua, per la gente che c'è volevo la sera, lascia aperta. Lì, ho preso l'alimentatore, quell'alimentatore usato l'ho preso, è un 50 ampere e l'ho preso, ma lungo però, Sì, c'avevo anch'io il CEP nella prima stazione. È un signore inventatore, io ho un 8 adesso, ho un 8 50 ampere stesso, non so se si vede dalla foto, è grosso, sempre ti vedare, e niente. Poi ho un Lafayette, un un PS200F con 20 ampere, però è un giocattolino. È un giocattolino che infatti ce l'ho per il Superstar. Le ciccia. È bella la trattazione, bella, bella. Bello anche il quello che sto usando adesso, eh. Caspita, nuovo, bello, bello, bello. Sì, io già è tutta roba datata, però recente, no, non è tutto questo. E c'ho il K che è un po' qualche graffietto, un po' di graffi, no, lo so, però funziona bene al 100%. Poco fa stavo vedendo quello, stavo vedendo il K, quando c'era Tio. Ed è perfetto, sia in trasmissione e in ricezione. Sì, vabbè, sono belli. Hai visto sopra il ricevitore, guarda la foto che ti ho mandato, sopra il ricevitore c'è lo schermo con l'analizzatore di spettro. Cioè io tutti quelli che entrano in radio posso dargli tutta la loro linearità, la loro collegazione che hanno. Hai visto? Sì, lo sto vedendo, l'ho visto anche poco fa, l'ho visto. Questo ce l'hai collegato al ricevitore? No, questo ce l'ho collegato a tutte le radio, sia al ricevitore, sia lì come sia al Kingwood, perché va tramite l'uscita esterna che hanno la radio e va la scheda audio, mi segue? Sì. Oh, è bello. Ho visto, è bello per me. Sì, e ti diverti quando quelle poche ore che ci rimane, ti diverti perché hai, diciamo, tutto piccolina, perché non ho queste grandissime cose, queste grandissime, anche perché avere tante radio non è che mi piace molto, perché poi alla fine crea anche disordine. Però ne ho preso tre, ce ne ho tre che ognuna ha la sua antenna, e per esempio quella lì come coltivo c'ho il commutatore che commuto la Grazioli, no? Però lì come anche l'antenna 2, quando vado in antenna 2 ho la long drive, sarà ricezione in 40, 80, 160 mila. Eppure il ricevitore, vabbè, se ti era controllato dal ricevitore ti metti le mani in testa, cosa ho combinato oggi? Ah, tu dici è impossibile, io ti mando la foto, ma la mattina ti faccio qualcosa, cioè sul tetto e riceve la 27 U e U. Come stavo parlando ieri, poi il promesso che tu c'è il posto per farlo, che in campagna è tutto diverso, non è come sono io sono costretto a mettere solo verticale, infatti c'è due verticali, sia 2 EU e 27, e basta. Con 27 appunto quasi tutto. Sì. Allora, per il ricevitore stasera ho piazzato la Firenze 2. Io ti faccio vedere i segnali che ho con quarantenna in V e U e in 27 ti metti le mani in testa. Ecco, me lo immagino, me lo immagino. Lo so. Sì, è una bellissima sensazione. Io non voglio allungare tanto ancora di queste radio che non mi interessa. L'ultima del contratto è quella che vedi tutta colorata sulla mia sinistra che è appesa, quello in cui quello lì è piccolino. E non ti piace, CTR Million, quello piccolino. Sì, ma vanno bene, fra, ma vanno bene. Caspita, io non ce l'ho, io quelle, tutte quelle, cioè tutte, quelle radio tu non le ho. Sto cercando la fotografia delle antenne e non me la ritrovo. Perché dovrei averla, riesci a vedere. Dove ce l'ho questa cosa? Ti trovo aggiudanti di si fotografia il telefono, piramida e bassa. Ma le fotografie che vanno ai altri, cioè mi vanno, diciamo, i miei amici di cose, di stupidità, e le fotografie dopo che ti servono te le ritrovi. Quella foto che ti hanno dato, quel video lì, quel 706, ce l'ho, ma adesso l'ho tolto anche dalla visuale, ce l'ho messo dentro una scatola, che lo metterete tutto in radio, non ce l'ho le antenne sufficienti, capito? Però con le altre c'è un'antenna per due radio. Sì, beh, per forza, no, avere troppe, dai, avere troppa roba, poi non è bene compresa, non puoi neanche prendere, dai, non ce la fai a seguirle. Aspettavo un viraggio buccio, un video delle cose, no ragazzo, lascia vedere in camera. Pessi. Ehi, sì. Io piano piano, tanto niente, quello che stavo entrando, non stavo più neanche entrando, non so, però questa gente qui non mi interessa e allora non è che neanche. Sto entrando da quando sei cominciato a parlare più giallo e così. No, ma anche io quando, io per esempio faccio certi personaggi non ci entro, perché non ancora entrare non ci sono discorsi, non c'è, quando non c'è un discorso che non puoi affrontare. io posso affrontare qualsiasi discorso, però educatamente, civilmente, queste cose, siccome te la una sei pur un po' come arruccato, a me non manda bra. Quindi io non voglio essere, poi non è che, non è che siamo superiori a chi, però io sono libero e posso fare quello che voglio, andare a radio, voglio entrare, non entrare, a mio piacimento, o no, cosa pensi? No, non c'è ragione, io penso che dietro il microfono non tu vedi, io non vedo cosa c'è per te, ci sono bambini a fianco a te, non ci so, non ci sono donne, non c'è un po', naturalmente, ma lui non mi potrebbe essere. Io non ho sempre visto, ma non sempre, poi naturalmente qualche volta